L'anno 172, il re Demetrio radunò le sue truppe e si recò in Media per procurarsi aiuti al fine di combattere Trifone. Ma Arsace, re della Persia e della Media, seppe che Demetrio era entrato nei suoi confini, mandò uno dei suoi generali a prenderlo vivo. Questi andò, batté l'armata di Demetrio, lo catturò e lo condusse da Arsace, il quale lo tenne in prigione. La terra di Giuda rimase tranquilla per tutti i giorni di Simone. Egli cercò il bene della sua nazione e a questa piacque la sua autorità e la sua gloria per tutti i giorni. Oltre ad ogni altra sua gloria, prese Giaffa con il porto e lo aprì alle isole del mare, estese i confini della sua nazione e fu padrone della regione. Raccolse numerosi prigionieri e si impadronì di Gezer, di Bet-Zur e dell'Acra. Ne tolse via le impurità e non vi era chi potesse resistergli. In pace si diedero a coltivare la loro terra e la terra dava i suoi prodotti e gli alberi dei campi il loro frutto. I vecchi sedevano sulle piazze, interessandosi del bene comune, mentre i giovani indossavano vesti di gloria e armature per la guerra. Alle città provvide alimenti e le munì di fortificazioni, sicché la fama della sua gloria pervenne fino all'estremità della terra. Ristabilì la pace nel paese e Israele ne provò una grande gioia. Ciascuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico, e non vi era chi incutesse loro timore. Chi li combatteva venne meno nel paese, e in quei giorni anche i re furono battuti. Rinvigorì tutti gli umili del suo popolo, fu zelante della legge e scacciò ogni empio e malvagio. Rese glorioso il luogo santo e lo rifornì di vasi sacri. A Roma e a Sparta si seppe che Gionata era morto e se ne rattristarono grandemente. Ma come seppero che Simone suo fratello era diventato sommo sacerdote al suo posto e che era padrone della regione e delle sue città, gli scrissero una lettera su tavole di bronzo per rinnovare con lui l'amicizia e l'alleanza che avevano concluso con Giuda e con Gionata suoi fratelli. La lettera fu letta davanti all'assemblea in Gerusalemme. Ecco ora la copia della lettera che inviarono gli Spartani. I principi e il popolo degli Spartani a Simone, grande sacerdote, agli anziani, ai sacerdoti e al resto del popolo dei Giudei, loro fratelli, salute. I messaggeri inviati presso il nostro popolo ci hanno informato della vostra gloria e del vostro onore. Noi ci siamo rallegrati per il loro arrivo e abbiamo registrato le cose da loro dette tra la decisione del popolo in questo modo. Numenio di Antioco e Antipatro di Giasone, messaggeri dei Giudei, sono venuti presso di noi per rinnovare la loro amicizia con noi. Piacque al popolo di accogliere tali uomini con onore e di depositare copia dei loro discorsi nei libri riservati al popolo, affinché il popolo degli Spartani ne conservi il ricordo. Una copia di queste cose viene scritta per Simone, sommo sacerdote. Dopo di ciò Simone inviò Numenio a Roma con un grande scudo d'oro del valore di 1000 mine per confermare l'alleanza con loro. Quando il popolo seppe queste cose, dissero: «Quale favore renderemo a Simone e ai suoi figli? Egli, infatti, con i suoi fratelli e la casa di suo padre, è stato forte, ha combattuto e ricacciato i nemici di Israele e ha ristabilito la libertà». Scrissero perciò un documento su tavole di bronzo e lo apposero su stele sul monte Sion. Ecco la copia del documento. Il 18 di Elul dell'anno 172, che è il terzo anno di Simone, sommo sacerdote insigne, in Asaramel, nella grande assemblea dei sacerdoti, del popolo, dei principi della nazione e degli anziani della regione, ci fu reso noto. Poiché a varie riprese vi furono guerre nella regione, Simone, figlio di Mattatia e sacerdote della stirpe di Joarib, e i suoi fratelli affrontarono il pericolo e resistettero agli avversari della loro nazione, perché il luogo santo e la legge rimanessero stabili. Così resero grande onore alla loro nazione. Jonata radunò la loro nazione, divenne loro sommo sacerdote e poi si riunì alla sua gente. Poi i loro nemici volevano invadere la loro regione e stendere la mano sul loro luogo santo. Allora Simone si levò contro di essi e combatté per la sua nazione. Spese molte delle sue sostanze, equipaggiò gli uomini dell'esercito e pagò loro lo stipendio. Fortificò le città della Giudea e Bet-Zur, che è ai confini della Giudea. Prima vi erano le armi dei nemici, ma egli vi pose a custodia soldati giudei. Fortificò pure Giaffa, che è sul mare, e Gezer, che è ai confini di Asdod. In essa prima abitavano i nemici, ma egli vi stabilì i giudei e vi depositò quanto era necessario al loro sostentamento. Il popolo vide la fede di Simone e la gloria che egli aveva voluto procurare alla sua nazione. Pertanto lo costituirono loro capo e sommo sacerdote per aver egli fatto tutte queste cose per la giustizia e per la fede che aveva custodito verso la sua nazione e perché in ogni modo aveva cercato di esaltare il suo popolo. Durante i suoi giorni gli riuscì di sradicare con le sue mani i gentili dalla loro regione, compresi quelli che erano nella città di Davide in Gerusalemme, che vi avevano costruito l'acra, dalla quale uscivano profanando quanto è intorno al luogo santo e facendo grande ingiuria alla sua purità. Egli la fece abitare da soldati giudei, la fortificò per la sicurezza della regione e della città, e innalzò le mura di Gerusalemme. Per questo il re Demetrio gli confermò il sommo sacerdozio, lo annoverò tra i suoi amici e gli conferì grandi onori. Egli infatti aveva appreso che i giudei erano stati chiamati amici, alleati e fratelli dai romani, che questi erano andati incontro con onore ai messaggeri di Simone e che i giudei e i sacerdoti avevano giudicato bene che Simone fosse il loro capo e sommo sacerdote per sempre fino a quando sorgerà un profeta fedele, che fosse il loro stratega e prendesse cura del luogo santo, stabilendo egli stesso chi deve presiedere ai suoi lavori, alla regione, all'esercito e alle fortezze, che si prendesse cura del luogo santo e fosse ascoltato da tutti, che nel suo nome si scrivessero tutti i documenti nella regione, ed egli potesse rivestirsi di porpora e portare ornamenti d'oro. Pertanto a nessuno del popolo e dei sacerdoti sarà lecito abrogare alcunché di queste cose, né parlare contro ciò che egli avrà detto, convocare senza di lui una riunione nella regione, né rivestirsi di porpora o portare la fibbia d'oro. Se qualcuno agirà contro tali cose o ne violerà qualcuna, sarà passibile di pena. Il popolo tutto giudicò bene di accordare a Simone di poter agire in conformità a queste cose. Simone accettò e giudicò bene di esercitare il sommo sacerdozio, di essere stratega ed etnarca dei giudei e dei sacerdoti e di presiedere a tutti. Ordinarono di redigere questo documento su tavole di bronzo, da collocarsi nel recinto del luogo santo, in un posto patente, e che una copia fosse riposta nel tesoro a disposizione di Simone e dei suoi figli.